Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, il Natale si avvicina e noi oggi parliamo della sua magia, una magia che appaga il cuore, appaga i sensi, e noi oggi vogliamo fare con voi un viaggio che ci aiuti a scoprire e forse anche a riscoprire quello che rende unico il nostro Natale. Qui in studio con me Alberto Pellai, ciao Alberto. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti. Senti Alberto, il Natale attiva i sensi e le nostre emozioni, il Natale è colore, luce, profumi, abbracci, baci, no? Gioia, musica, amore, amicizia, tutto questo e ancora di più. Sì, io sfido proprio i nostri ascoltatori, vorrei trovarne uno che non ha un ricordo del suo Natale, di quando era bambino, non ha un profumo dentro di sé, non ha un sapore, non ha un odore. Il Natale è veramente un momento speciale ed è proprio interessante vedere, quando tu devi ricostruire la storia di una persona anche nella stanza del terapeuta, come alcuni passaggi della vita di te bambino, come i Natali oppure i tempi delle vacanze, vengono proprio ripescati, ricostruiti per cercare di capire com'era andata. Quindi oggi invitiamo i nostri ascoltatori a raccontarci il nostro Natale, entriamo un po' nella stanza dello psicoterapeuta, perché dai ricordi del nostro Natale forse potremo capire molto di più della nostra personalità, di noi stessi, delle nostre fatiche. Sì, direi che poi ci fa davvero bene, cioè rientrare in contatto con il bambino che c'è in noi, riprendere visione di ricordi, immagini, esperienze proprio che sono dentro di noi e che spesso nella fretta della quotidianità, nel vivere di corsa, non riusciamo. È un po' come riaprire, ecco, un album fotografico e dalla prima all'ultima pagina provare ad andare a cercare quelle immagini che hanno fermato ricordi di Natale dentro di noi. Allora, 800 24 00 24, oggi abbiamo proprio bisogno dei vostri racconti, dei vostri interventi, i messaggi al 349 238 6666, ma come sapete abbiamo anche il nostro profilo Facebook, potete lasciarci lì un appunto, un messaggio, uno stimolo. Allora oggi profumi, sapori, colori, ricordi, emozioni diventeranno i protagonisti di questa puntata. Voi cominciate a chiamarci e a scriverci per raccontarci un po' gli ingredienti del vostro Natale. Cosa non può mancare nella vostra casa, nel vostro cuore, per fare di questo giorno il giorno, quel giorno speciale? Scriveteci, il messaggio più attivante riceverà a casa, grazie alla collaborazione con IBS, un'emozione che ha la musica e le immagini di uno dei più bei ricordi della nostra infanzia. Magnifico, fantasia di Walt Disney. Se volete trovarlo sotto l'albero, cominciate a scriverci 349 238 6666, il vostro messaggio, la vostra ricetta, gli ingredienti del vostro Natale. Potete anche scrivercelo su Facebook, Alberto. Sì, e direi che non so, questo è un altro, per me il tempo del Natale era proprio anche un tempo di cartoni, di film, di immagini, di libri che andavano sfogliate, per cui questo cartone, io tra l'altro questo Natale lo rivedrò proprio insieme ai nostri bambini, è stato ripubblicato da poco. È un'altra immagine che potremmo chiedere ai nostri ascoltatori: c'è un film, c'è un cartone, c'è qualcosa che avete visto oppure letto che per voi è Natale? E direi che poi Mr. Scrooge, il personaggio dove la lotta tra il bene e il male di Keynesiana memoria, che ci ha accompagnato quando eravamo bambini, potrebbe essere una di quelle cose senza tempo che aiutano di nuovo proprio a entrare nell'atmosfera del Natale. Proprio ieri parlavamo di Evergreen. Atmosfera di Natale, c'è proprio profumo di Natale nell'aria. Lo sentite anche voi da casa, raccontatecelo. Ma è vero o magari il ricordo di quei profumi che hanno caratterizzato, no, i nostri Natali precedenti? precedenti. Alberto, noi siamo sempre, no, alla ricerca di qualche cosa che attiva in noi dei ricordi. Sicuramente i profumi hanno questa particolarità, ma in linea con noi abbiamo Laura Tonatto, uno dei nasi più apprezzati al mondo. Ciao Laura. Buongiorno, ciao Nicoletta, grazie per questo invito, sempre graditissimo. Senti, poi tu avrai una sorpresa, perché ti faccio una sorpresina per Natale nel corso della trasmissione. Una persona a te molto cara, che, con cui tu hai lavorato e come te piace molto alle regine, dico solo questo. Lo so. Allora hai capito. Allora, perché voi veramente alle regine non solo, piacete molto anche a noi, però avete quel qui. Senti Laura, se tu dovessi creare un profumo proprio, no, capace di raccontare il tuo Natale, che ingredienti ci metteresti dentro? Ma guarda, sono ingredienti molto particolari che non si usano in profumeria, ma sono i profumi delle persone care che magari non ci sono più, profumi degli abbracci, profumi delle canzoni di Natale, dei cinema che proiettavano questi film unici dove si andava a vederli proprio al cinema, non si vedevano in casa. Sì. Erano i profumi delle canzoni che cantavamo a scuola, nella recita di classe, e tutte queste cose che mi ricordano il Natale da bambina. E penso che i ricordi olfattivi del Natale siano veramente più incisivi, quelli che ci rimarranno per sempre, molto più delle immagini. E ognuno di noi, proprio perché l'olfatto è libero, è un senso il più libero che noi abbiamo, risiede nell'ipotalamo, dove ci sono la fame, il sonno e il sesso. Ognuno di noi, dicevo, ricorda quello che più gli è rimasto dopo tanti anni, soprattutto olfattivamente. E allora sono gli odori dei cibi cotti dalle nonne, dei biscotti fatti in casa, delle torte. Ecco, queste sono proprio le magiche atmosfere fatte dal Natale. Alberto, il tuo profumo di Natale qual è? Quello che sei più sui biscotti, sei più sugli abbracci? Guarda, io risentivo Laura Tonatto che parlava. Perché Laura è profumata anche solo quando racconta. Lei parlava di profumi e io vedevo le foto dentro di me. Il Natale era proprio il tempo in cui in casa, quando io ero bambino, le donne di casa facevano la sfoglia e poi preparavano i ravioli con la zucca per la vigilia, i cappelletti invece per il giorno del Natale, poi c'erano i biscotti del Natale. Quindi tutti questi profumi io li ho rivisti ascoltando la voce della tua ospite. Allora, per me iniziano ad arrivare i messaggi al 349-238-6666. Gianluca da Bergamo ci scrive: per me Natale è riascoltare una vecchia audiocassetta appartenuta a mio nonno di canzoni natalizie cantate da bambini. Il profumo è quello dei mandarini. Andrei invece a sentire che cosa ci racconta Cinzia, che ci chiama dalla provincia di Venezia. Cinzia, buongiorno. Buongiorno, e anch'io questo qua, questo profumo di odori del Natale, perché i mandarini sopra la stufa a legna, le bucce dei mandarini metteva la nonna e faceva questo dolce che da noi si chiama smeiassa in dialetto nostro. Come si chiama, Cinzia? Smeiassa, sta dolce, fatta di uvetta sultanina, di pane raffermo. E le favole che ci raccontava, io mi emoziono ogni anno, dico sempre non faccio niente, è un pensierino per i vicini di casa sempre. Io ho una borsa qua piena di calzini, sì, per il vicino di casa, per l'amica, piccole cose, perché non serve grandi cose, piccole cose, ma lo sento proprio il Natale, una cosa bellissima, ecco, tutto qua. Grazie Cinzia, si sente da come lo racconta che per Cinzia il Natale è qualche cosa che proprio, no, parte dal suo cuore, anche questa attenzione per i vicini, anche questo desiderio di continuare le tradizioni di quando si era piccoli, penso che sia una bella cosa. 800 24 00 24, abbiamo parlato dei ricordi e dell'olfatto che è capace a riattivarli, quasi avesse una sorta di via preferenziale. In linea con noi abbiamo il professor Antonio Federico, che è presidente della Società Italiana di Neurologia e ordinario di neurologia all'Università di Siena. Buongiorno professore. Buongiorno. Professore, partiamo proprio dai profumi. Sì, no, io volevo partire soprattutto dai ricordi e da quello che diceva Cinzia, la signora Cinzia, e anche gli altri ospiti, del fatto che il Natale, fondamentalmente la bellezza del Natale, è proprio in una situazione di ricordi di cose antiche. E d'altra parte Proust, in una pagina bellissima, nota a tantissimi sulle ricordo delle Madeleine, descrive proprio il profumo, i sapori di quando era bambino, rievocati dopo molto tempo. E in effetti questi sapori vengono vissuti dal cervello, e quindi non solo dallo stomaco, non solo dalla pancia, attraverso l'attivazione di circuiti cerebrali che oggi possiamo monitorare con nuove tecniche di risonanza magnetica, e che focalizzano l'attenzione su alcune aree che venivano evocate precedentemente dall'ippocampo, il sistema orbito frontale, la regione prefrontale, il bulbo olfattivo, che possiamo noi attivare sia mangiando delle cose, sì, delle cose buone o delle cose cattive, e quindi noi vogliamo mangiare quelle buone, soprattutto a Natale. Attiviamo delle aree diverse, ma anche che possiamo evocare semplicemente vedendo degli oggetti. Sì. E quindi evocando il ricordo di queste sensazioni che noi abbiamo sperimentato precedentemente. Per esempio, un dato estremamente interessante è come il caffè, ma anche nell'esperienza quotidiana, il profumo del caffè la mattina può bastarci a svegliare quasi quanto bere una tazzina di caffè. Perché il profumo del caffè direttamente è dimostrato che attiva i bulbi olfattivi e i recettori che sono presenti sui bulbi olfattivi, e poi attiva delle altre aree del cervello. Così come il mangiare la cioccolata può attivare aree diverse a seconda se noi utilizziamo la cioccolata per superare alcuni momenti di piacere o di dispiacere. La cioccolata, sì, è il più potente antidepressivo che abbiamo, oppure se invece noi sperimentiamo un livello di sazietà dalla cioccolata, quindi l'abbiamo mangiata troppo. Certo, già solo il profumo, Laura, della cioccolata, sarà perché sono nata e cresciuta a Torino, che dove insomma è il cioccolato, no Laura, tu che sei torinese come me, adesso non per dire, ma non abbiamo, vero? Dire la sua. Ecco, noi possiamo dire la nostra, però Laura, già subito il cioccolato ti tira su, sentire solamente anche il profumo. Sì, guarda, io sono pienamente d'accordo, anche una bellissima cioccolata calda in questo periodo è una delle gioie della vita, e non solo a livello gustativo, ma anche proprio il profumo che sentiamo prima di gustare una cioccolata, ci mette subito allegria, ci mette curiosità, e io credo che anche in questo periodo, ricordo da sempre, anche questa è una cosa tipicamente natalizia, crema al cioccolato da abbinare ai panettoni, erano veramente la delizia, crema e cioccolato, insomma, dei bambini, e ancora oggi insomma tutti le facciamo per certo, i nostri nipoti. Sì, meno male che ci sono, così abbiamo, no, una scusa per mangiarle. Alberto anche, che è un goloso pazzesco, con la scusa che ha quattro bambini, via di dolci. Professor Federico, prima di salutarci, ci dia la sua ricetta di Natale. Ma una mia ricetta di Natale è quella di mangiare le cose che piacciono di più, e quello è fondamentale, di non abusare, perché qui dovremmo introdurre in un momento particolarmente diciamo ricco di cibi, che probabilmente il più potente anti-aging, anti-invecchiamento, è rappresentato dalla dieta, da una dieta ipocalorica, cioè mantenersi con una dieta ipocalorica facilita invecchiare bene. Insomma, un però pochino più magretti. Possiamo No, però dall'altro lato abbiamo anche dei dati che per esempio il vino rosso è uno dei più potenti antiossidanti, che il tè verde può avere delle funzioni antiossidanti, e quindi io direi di mangiare le cose che più ci attivano i ricordi e ci fanno piacere, però mangiarli moderatamente senza abusare, e soprattutto cercando anche di mangiarli col cervello e quindi di vivere intensamente questa emozione, che non è una emozione solamente di pancia, quello di mangiare, ma c'è dietro tutta una cultura, un ricordo, una funzione cerebrale che deve governare queste attività, ricordandoci però che mangiar poco probabilmente, soprattutto sugli animali da esperimento, ma anche sugli uomini, aiuta a vivere di più. Insomma, magretti e longevi. Grazie, professor Federico. Arrivederci, auguri. Grazie anche a lei. Siamo partiti dal profumo del Natale, ma c'è anche il sapore del Natale. In linea con noi ho un vero artista del sapore. Saluto Filippo Lamantia, buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie, auguri. Grazie. Ciao, anche Laura. A lei. Avevo già anticipato, Laura l'aveva subito riconosciuto perché volevo farle una sorpresina, ma Laura, appena ho detto piace come te alle regine, è un maestro di sapore, colore, eccetera, ha detto lo so, ma io non volevo che lei lo dicesse, perché per noi è un grande onore avere lei e Laura Tonatto grazie a voi, in veramente. Trasmissione. Anche Alberto era molto impressionato, perché abbiamo letto di questa bella avventura che avete fatto insieme lei e Laura Tonatto. Ce la volete raccontare, Filippo? Quasi mistica, perché era da tempo, da quando ho conosciuto Laura, che pensavo e sognavo di realizzare un progetto con lei che unisse appunto il profumo e il cibo, perché il profumo credo sia il denominatore comune di qualsiasi cosa. E quindi, dato che io poi utilizzo in cucina esclusivamente i profumi e non utilizzo, per una mia questione mia personale, l'aglio e la cipolla, i soffritti, lo scalogno, il porro, di cui ho tanto rispetto, fanno benissimo, solamente che a me non piacciono, quindi per esigenza personale che mi sono inventato una cucina a base di profumi, ed è andata molto bene, va molto bene. Ce le insegnerà qualche trucchetto oggi? Ma non ci sono trucchi, è solamente praticamente la composizione quasi spontanea di unire degli ingredienti semplici e stagionali, tutto qui. Laura, com'è andata a lavorare con Filippo Lamantia? Ma guarda, intanto lo saluto, ciao Filippo e tanti auguri. È andata benissimo, perché Filippo ha veramente una sensibilità per i profumi che è unica. I suoi cibi partono dagli odori per raccontare il gusto, e questo lo si sente sia quando parla, quando descrive la sua vita intrisa di profumi da sempre. Lui riconosce le persone, i luoghi. Crea la sua cucina proprio partendo dai profumi che hanno le materie prime, ed è stato molto bello, perché lui proponeva dei piatti e io creavo i profumi di questi piatti, e anche la sezione della pasticceria per esempio è stata interessantissima, perché abbiamo creato una gelatina di abbinata a una nota di vaniglia che è stata ricreata con il profumo, e che era veramente, non capivi quando il profumo, quando gustavi questa gelatina straordinaria. Un altro... Perché non ci avete invitato? Io sarei venuta così volentieri, mi viene dal cuore, adesso dovrò... non avete pensato a noi. Un'altra a Roma e un'altra a New York, ecco. Sarete tutti invitati, perché hanno avuto questa cena, una a Torino da Italy, un'altra a Majestic a Roma da Filippo, hanno avuto un successo immediato, straordinario. E i posti erano limitatissimi. Posti limitatissimi, però piccolo, si bissa. Primissimo esperimento. Sicuramente sarete tutti invitati, avremo... molti più posti, molta più disponibilità. Noi siamo prenotati, guarda che io mi porto anche i miei ascoltatori, però ci allarghiamo, ecco. E intanto noi rimaniamo insieme a Filippo Lamantia, Laura Tonato, Alberto. Abbiamo forse il tempo di leggere qualche SMS, se lo leggi tu, perché io sono malata e non ce la posso fare. Sono arrivati tantissimi SMS. lo chiederemo poi a Laura Tonato, perché almeno 10, Ilaria, Nadia da Venezia, Federica, parlano del profumo del muschio. Cos'ha di così speciale per essere abbinato da tutti ai ricordi del Natale? Andare nei forni a cucinare i dolci, ricordi bellissimi ma anche tristezza. Roberto da Macerata consiglia la cioccolata con la polvere di peperoncino perché fa Natale. C'è una storia divertentissima di una nostra ascoltatrice che dice: in casa nostra il Natale, il pranzo di Natale durava 20 minuti, ma un anno a Natale è successo un imprevisto, si è aperta la gabbietta dei canarini e sono volati in giro. Io e i miei abbiamo iniziato a girare tutte le case dei vicini per cercarli, ricordo il profumo delle loro tavolate, alla fine eravamo tutti in cortile per una grande caccia all'uccellino, è stato il Natale più bello della mia vita. Adesso noi andiamo a sentire i mercati, poi il meteo, rimaniamo insieme. 800 24 00 24, abbiamo già Vittoria che ci chiama da Milano, la sentiamo subito dopo, tra poco. Essere e benessere. Oh happy day, oh happy day, when Jesus washed, when Jesus washed, when Jesus washed, wash my sins away. Siamo tornati insieme, prepariamo il Natale insieme. In linea con noi abbiamo Laura Tonato, Filippo Lamantia, in studio Alberto Pellai, e abbiamo Vittoria che ci chiama da Milano. Buongiorno Vittoria. Buongiorno. Due ricordi in particolare, uno legato al profumo e l'altro legato a un'emozione. Quello legato al profumo si riferisce alla preparazione dei ravioli di brasato, che era una preparazione lunga alla quale però facevamo partecipare i nostri bambini. Eh sì, perché anch'io ne ho fatti tanti di ravioli. Eh sì, i piccoli infatti, si mettevano lì. Infatti era bellissima la cosa, perché mio marito con questo grande grembiulone, loro tutti infarinati dalla testa ai piedi, avevano il compito di schiacciare il ripieno all'interno di quella piccola struttura in alluminio che contiene tutta concava, che doveva contenere, certo, la forma dei ravioli, poi passare col mattarellino piccolo l'ultima sfoglia, e la mamma tagliava, che ero io, tagliavo, certo, naturalmente con la rotellina tutto. Questo rito poi scaturiva, cioè generava un grande applauso al pranzo, perché naturalmente si dava la responsabilità della buona riuscita di tutto, soprattutto ai piccoli. E invece per quello che riguarda la parte emozionale, il nonno si travestiva da Babbo Natale, però doveva scomparire a un certo punto alla fine del pranzo, andare in bagno, procedere alla vestizione che era piuttosto lunga, e quando i piccoli chiedevano: ma dov'è il nonno? Dov'è questo nonno che non c'è più? Ma è andato a fare la pipì in bagno, questa pipì non finiva più, fino che poi finalmente al buio della stanza compariva con una candelina in mano. Guardi, mi trema la voce all'idea, è proprio una cosa che mi viene il brivido ancora adesso. Comunque prendeva i piccoli per mano, li portava davanti al presepio, sì, li faceva inginocchiare, anche lui si inginocchiava, si diceva una piccola preghiera e poi procedeva alla distribuzione. Noi avevamo solo due bambini, di questi piccoli doni. E quando poi si doveva tornare questo nonno natura, nonno dove sei stato? Hai perso una cosa bellissima, è arrivato Babbo Natale qui e là. E comunque questa era, adesso quest'anno che siamo nonni noi, sì, ecco, rifaremo ancora tutto questo rito speciale. Ho già comprato il costume per mio marito e via, e la nostra piccola Valentina insomma, aspetterà, avrà, sì. Ma grazie Vittoria, perché ci ha regalato veramente dei ricordi che fanno proprio Natale. Filippo, posso darti metti del tu, scusami, perché certo, do del tu a Laura, scusami. Poi tu sei la mia parte del 50% siciliana come me. Senti, Filippo, quando la nostra amica ci raccontava dei ravioli, ci sono proprio dei piatti che vanno preparati a Natale, perché tutti partecipano. Ma guarda, sì, io appunto c'ho ricordi, perché ogni ricordo praticamente è un piatto che nasce. Quindi praticamente quando io ho bisogno di stuzzicare appunto la mente per creare i menu nuovi, vado indietro anche nel tempo e ricostruisco tutto quello che mi succedeva in cucina o a casa quando ero piccolo. Io ho ricordi di Natale a casa mia del 24 sera, c'era appunto un profumo di zafferano, di uvetta, perché che si faceva la pasta coi broccoli in tegame, praticamente, che è anche un piatto del Gattopardo. In una scena del Gattopardo c'è il timballo di broccoli in tegame, quindi viene lessato il broccolo siciliano, sì, in acqua e zafferano, viene lessato appunto molto al dente, viene passato in tegame insieme all'acciughina, ai pinoli, ai capperi, un po' di estratto di pomodoro, viene stracotto, si cuoce la pasta molto al dente, si mischia col condimento fatto, si aggiunge il caciocavallo, si manteca e si inforna. Ed era un piatto straordinario per me, che invadeva tutta la casa in quel periodo. Siamo rimasti, io me lo sto sognando, e adesso io sono veramente molto raffreddata, ma attivata dalla tua descrizione e poi da Laura, che mi porta sempre a fare dei viaggi nei profumi, mi sembra di sentirne addirittura il profumo. Laura, Guarda, Filippo ha sempre degli abbinamenti straordinari. Lui è un poeta. Sì, è proprio, sono dei talenti, si nasce così, cioè io ho lavorato con altri chef, grandissimi chef, ma lui ha veramente questa capacità di descrivere gli odori, di dare anima ai suoi piatti. E poi c'è questo sempre abbinamento alla cucina della sua famiglia, delle sue donne che cucinavano per lui, perché cucinare per i nostri ospiti è un grande gesto d'amore. E quindi l'amore si può trasferire attraverso questi profumi e questi gusti che raccontano la storia delle famiglie italiane, e ognuno di noi ha un ricordo. Volevo chiedere ad entrambi, io molti dei ricordi che i nostri ascoltatori hanno condiviso con noi ci sembrano proprio ricordi di un passato che è difficile far rivivere nel qui ed ora ai nostri figli. Ci date qualche consiglio per fare cose semplici con i nostri figli, con i bambini che abbiamo in casa, e che aiutino anche loro a conservare un sapore e un profumo del Natale? Iniziamo da Filippo. Ma guarda, diciamo che un ricordo persistente è una traccia per fare, per esempio, un piatto molto semplice e facile, appunto da cuoco, potrebbe essere l'insalatina di pesce tiepida, che è una cosa praticamente che costa anche poco, perché oggi ma le famiglie hanno bisogno di andare al mercato e di farsi anche i conti. Certo. Io per esempio ogni anno faccio dei menu che ovviamente per la casa, che costano a Natale a persona 11,20 euro, quindi praticamente sapendo accoppiare che vari ingredienti che vengono fuori dei piatti straordinari. Un piatto di questo potrebbe essere l'insalatina tiepida di pesce con la salsa di prezzemolo e limone. Quindi il denominatore comune che cos'è? Il prezzemolo e il limone, perché praticamente vengono sbattuti insieme, viene fatto una salsettina omogenea, viene immischiato ai finocchi che sono di questo periodo, agli spicchi delle arance, alle foglioline della menta, ai capperi sotto sale dissalati, al broccoletto, il cardo, la carota e appunto un pesce qualsiasi, che può essere praticamente un trancio di ricciola, di cernia, di sgombro, qualsiasi pesce praticamente si trovano. Quindi questo è un piatto straordinario che può essere praticamente che riconducibile a casa. Certo, e poi è molto profumato, come tutta la tua cucina, Filippo. Quella è una cosa di cui praticamente ogni giorno io lavoro per questo. Infatti la sera la gente al ristorante, che è veramente numerosissima, quando vado al tavolo e gli dico come è andata, tutto bene, mm-hmm. loro praticamente ma mi descrivono alla perfezione quello che hanno mangiato e i profumi che hanno ascoltato al palato. Magnifico. Che per me quello è il lavoro sì. finale. Cioè quando un cliente praticamente mi dice qui dentro ho sentito la cannella, lo zenzero, ho sentito la mentuccia, la scorzetta del limone. Ecco, noi questo potremmo anche, noi l'abbiamo un po' perso anche perché insomma la nostra, la cucina che facciamo a casa noi, Filippo, non è come quella che fai tu, quindi magari qualche pasticcetto lo facciamo, ma io anche ultimamente sto cercando di preparare dei piatti, passami il termine, molto puliti, in cui i sapori si distinguano bene. Invece noi siamo generalmente abituati anche con questi piatti pronti, no? Che sono abbastanza ricchi di grassi, ad avere un'uniformità di sapore, tanto che è questo un po', Alberto, quello che poi invita a mangiare anche quando non si ha fame, no? È un meccanismo un po' subdolo, certo, quello che ci sta dietro. Questi piatti che sembrano tutti uguali ti appagano, ma non riesci più a distinguere, come diceva Filippo, il prezzemolo dello zafferano dal cappero. Sì, e che poi la scienza dice sono proprio costruiti un po' a tavolino per dare questa sorta di botta ipersensoriale che arriva anche al nostro cervello e che in realtà è costruita proprio un po' meccanicamente con un forte stimolo dato dall'aggiunta di sale, di grassi, acidi grassi saturi e di magari dosi di carboidrati, quindi cibi che sono tutti fatti un po' con la stessa ricetta e di cui tu alla fine non per distingue. Cui il messaggio di oggi è l'amantizziamoci, Filippo, cioè riscopriamo una cucina dove il sapore diventa proprio l'ingrediente, diventa importante perché ci lascia un sapore e riusciamo a distinguerli. Vorrei andare a Prato da Giuseppe che ci sta aspettando. 800 24 00 24, i messaggi che... Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. Giuseppe, scusi, volevo dire anche a lei che i messaggi che ci stanno arrivando sono così belli che mi piacerebbe metterli anche un po' sul nostro sito su Facebook. Adesso sento Laura Vanossi che è il grande esperto, perché a leggerli si sente già subito il Natale. Chiusa la parentesi, volevo ringraziarvi molto. Giuseppe. Io volevo dare una testimonianza dei sapori, degli odori della mia infanzia. Io sì. vivo a Prato, ma sono originario della Calabria, quindi un vostro quasi conterraneo. E in questo periodo il mio paese si profumava, dico veramente si profumava, dell'odore del miele cotto, perché giù da noi si produceva nelle antiche dolcerie, si produceva il torrone a base di mandorle e miele, ricetta araba e dei biscotti col miele, quindi questo fondersi di miele di zagara, miele di castagne, profumi di agrumi, riempiva il nostro paese. Noi già da bambini riconoscevamo nell'aria cosa stavano facendo dentro le dolcerie, se stavano facendo il torrone piuttosto che i biscotti. Ecco, questi sono dei profumi che io, ecco, in questo periodo mi ritornano come se li sentissi ora, ecco, e mi dispiace che oggi, diciamo, i giovani, i miei figli soprattutto, ecco, non riescono. Se lo sono più. Persi, deve se lo sono persi, sì, così come si sono persi il profumo della frutta che arrivava d'estate dalle coste, no? Dalle vigne nelle coste, una frutta la portavano con le barche, ma già quando arrivava sulla spiaggia già se ne sentiva il profumo delle pesche. Dei fichi, insomma, si sentiva già nell'aria questo profumo. Giuseppe, grazie per averci chiamato, per averci raccontato. Buon Natale, Giuseppe. Grazie altrettanto a voi. Noi andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade e ritorniamo subito dopo insieme. Vi aspetto. Essere e benessere. Siamo tornati insieme, Laura Tonatto, Filippo Lamantia, Alberto Pellai, stiamo preparandoci per il Natale. Mi scrive Ines, non è giusto, sono già aumentata 10 kg senza mangiare. Pietà, ho fatto colazione alle 6, ci scrive Simone. Questi tanti messaggi arrivano per raccontarci la magia del loro Natale. Laura, tu che cosa farai? Ma io, guarda, preferisco far fare perché è veramente un periodo molto intenso per me e non ho proprio modo di mettermi ai fornelli. Per me cucinare è assolutamente un momento di grande piacere, grande concentrazione, e per cui ho tanti parenti, tante amiche, insomma, che mi aiutano in questo. Io farò la solita crema per il panettone, e questo sarà un po' il mio apporto al pranzo natalizio. Credo che quella visione che ci ha dato l'ascoltatore Giuseppe, sì, mi ha colpito tantissimo, di questa frutta che arrivava sulle barche, fichi e pesche, mi ha dato un'emozione estiva straordinaria, perché queste sono le immagini che purtroppo non vediamo più, e c'è tutta che arriva sulle spiagge con sì, queste barchette meravigliosa, è un odore che ci riporta all'estate e che in questo non sentiamo, ma veramente molto molto intenso e meraviglioso. Filippo ci ha detto che quando crea un piatto si rifà alla sua infanzia. Tu quando crei un profumo, Laura? E ogni volta è un momento diverso. Io non ho mai avuto due ispirazioni simili. Ci sono meccanismi straordinari, sono veramente magie che ci portano a pensare sia quando siamo stati piccolissimi, oppure a cose che non abbiamo mai visto, o a captare degli elementi, come è stato per esempio il profumo del quadro Il suonatore di liuto di Caravaggio. Vedere un quadro, sentirne l'odore, ecco, questo per me è stata un'emozione fortissima e non potevo fare a meno di sentirla questa emozione olfattivamente. Quindi ho creato questo profumo che è un profumo che parla di secoli, che parla di 500 anni, perché questo quadro fu dipinto da Caravaggio in una mattina del 1594 circa, fu finito da Caravaggio. E quindi risentire quegli odori, che erano gli odori dei suoi colori, gli odori degli elementi che lui sceglieva e dipingeva dal vivo, per me è stata veramente una grande emozione. E ci sono momenti meravigliosi nella creazione di un profumo, e sono le persone che incontriamo, ma soprattutto le materie prime, perché l'oud, per esempio, che è questo legno straordinario che si usa in Arabia Saudita per dare il benvenuto agli ospiti, si brucia ed è intensissimo. In tutte le case saudite c'è questo odore unico, perché non c'è in nessun'altra parte al mondo, e abbinarlo a rose straordinarie, tuberose, ambre, è stato un istinto che mi ha portato a creare questi mélange. Una magia. Veronica, dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno, niente, io volevo dire la mia, diciamo, il mio ricordo. Ho 53 anni e quando ero piccolina avevo mia mamma che lavorava, e per cui quando arrivava il periodo di Natale in casa mia non esistevano dolci tipici della Puglia. Sì. E per cui nelle case delle mie amiche c'erano tutte queste distese di dolci fatti in casa con un profumo straordinario. Io ricordo il chiodo di garofano e poi la cannella. Sì. Chiaramente io avevo sempre la curina in bocca di questi dolci, perché all'epoca non si vendevano nelle pasticcerie, ovviamente chi li faceva li mangiava, e per cui il mio dispiacere è che non potevo mangiare questi dolci. Beh, alla fine, all'età di 30 anni, sono riuscita a rubare le varie ricette di tutti questi dolci e ancora oggi li faccio. Si trova il famoso vincotto, perché la famosa cartellata. Sì. E ha questo profumo, il vincotto, che è buonissimo e dolcissimo. E niente. E per lei Veronica fa Natale? Sì, sì, per me sì. E anche i miei figli. Oggi, vabbè, ho mia figlia che ha 27 anni, mio figlio 22 anni, pretendono prima di Natale, perché ovviamente si fa una settimana prima, anche 10 giorni prima, questi tipici dolci natalizi pugliesi. E a loro piace tantissimo. Ho mantenuto la tradizione che a me è mancata quando ero piccolina, e però l'ho messa ai miei figli. Grazie Veronica. Filippo, sì. Hai sentito? Ho sentito tutto, guarda, veramente mi rendo conto come il ricordo leghi praticamente qualsiasi persona e i profumi praticamente vengono memorizzati dalle cellule. Questa è la cosa straordinaria, veramente. Infatti io a mia figlia, da quando è nata, ho fatto una cosa assurda. Ogni giorno gli mettevo una foglia di basilico sul naso. Non so se lei un giorno odierà il basilico oppure sarà una coltivatrice di basilico. Però intanto hai fatto questa sorta di allenamento. Esattamente. Non si sa, ti sei portato avanti e poi insomma Laura Tonatto farà il resto, no? Quella guarda, non c'è per... ormai è la colonna olfattiva della mia vita, ecco, tutto qui. Devo dire, pensando a lei ti si aprono subito davanti un mondo di profumi. Io vorrei chiudere questa nostra trasmissione con una battuta del professor Giorgio Sesti, che è ordinario di medicina interna all'Università Magna Grecia di Catanzaro. Buongiorno. Buongiorno. A cui non chiederò naturalmente una ricetta, perché mi piacerebbe, ma il tempo stringe, ma dato che ci sono tante persone diabetiche in Italia e Natale arriva per tutti, io volevo chiedere a lei qualche dritta, un suggerimento per festeggiare Natale sicuramente, ma con un'attenzione particolare se appunto per le persone diabetiche. Sì, innanzitutto il diabetico sa che il cibo, l'eccesso di cibo è il suo nemico giurato, quindi la prima cosa da fare è moderazione, ovviamente nei vari pranzi e cene del natalizie. La seconda cosa, oggi abbiamo dei farmaci nuovi che possono curare meglio il diabete, nel senso che per esempio possono ridurre il rischio di avere ipoglicemia. Ci sono alcuni farmaci che prendono i diabetici che possono far andare in ipoglicemia, e se per esempio uno fa una grande abbuffata e poi salta la cena, per esempio, c'è il rischio che poi la notte possa andare in ipoglicemia. E ci sono anche dei farmaci che fanno aumentare di peso proprio come meccanismo d'azione. Oggi ci sono, per fortuna, abbiamo nella nostra disposizione dei nuovi farmaci che aiutano in due cose: uno, controllano bene il diabete, e questa è la prima cosa; secondo, addirittura fanno ridurre il peso; e terzo, evitano di andare in ipoglicemia, perché hanno dei meccanismi di azione che sostanzialmente impediscono di andare in ipoglicemia. Professore, io devo salutarla, la ringrazio. Volevamo dare appunto questa indicazione per le persone malate di diabete, però proprio perché in occasione del Natale ci sono tanti dubbi, tante paure. Volevo però segnalare il messaggio che avevamo scelto fra tutti: la mia ricetta per Natale è il sapore del ripieno che mia madre prepara la vigilia da quando sono piccola. I profumi e le sensazioni sono quelle della messa di mezzanotte, alla quale andavo con mia mamma, che indossava sempre il suo cappotto rosso, al quale mi stringevo quando sentivo che il sonno mi avrebbe colto prima che la messa finisse, e l'odore del vin brûlé che mi lasciavano assaggiare prima di tornare a casa, ed in ultimo il piccolo Lord, film senza il quale non è Natale. Questo è il messaggio che abbiamo scelto. Laura, un abbraccio. Filippo, grazie per essere stato con noi. Con Alberto ci vediamo e ci sentiamo. Grazie a voi per averci seguito.